mi proteggi. Senza te io cado nel profondo abisso. Senza te non faccio un passo. Irraggiungibile, inafferrabile amore. Intangibile, inviolabile amore. Più vicino a me di me stesso. Abbatti i potenti, vieni a noi.